Welcome, Federico. The system is ready to jack in. Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Medium, il podcast in entrata. Qui con noi sono Luca Ricci e Nora Salli. Come potete notare, non c'è Federico Latini, l'abbiamo cacciato dal suo programma. Quindi questa puntata, in realtà, visto che abbiamo preso d'assalto il suo podcast, si chiamerà Hostile Takeover. Non sapevi come si chiamava la puntata. No, non mi ricordo più niente. C'è solo una cosa che mi rimbomba in testa, il fatto che hai detto buonasera. Tu stai dando per scontato che i nostri ascoltatori ci ascolteranno di sera. Sì, è probabile che in base al fuso orario, credo. Quindi, allora, buongiorno ragazzi o buon pomeriggio. O ben svegliati. Se la prima cosa che volete sentire è la nostra stupenda voce... Ve lo consiglio, però comunque non è proprio un ottimo modo per fare colazione. Quindi, ciao Federico, spero che stiamo facendo un'ottima puntata. Spero che portate via il podcast. Un sacco di soldi col tuo podcast. Devi smetterla di dire quello che pensi. Comunque, iniziamo a parlare delle figurine, visto che siamo qui per questo. Ah giusto, è vero, le figurine. Beh, prima di tutto, un po' ci conoscete. Io sono il nuovo campione generale, bla bla bla. E qui invece di fianco a me, no, Vassalli è quello che voleva venire anche lui a fare il nazionale, ma purtroppo ha dovuto fare un sacramento. Ha avuto degli impegni ecclesiastici. Esatto, diciamo, mi sono dovuto cresimare perché convolerò a nozze. Ve lo dico subito, così le mie fan smettono di mandarmi like su Facebook chiedendomi l'amicizia. Ragazzi, è fidanzato, strafidanzato, stra quasi sposato. Cercate anche voi, ragazzi, basta mandare messaggi scontati. Quindi, prima di tutto, noi siamo giocatori di vecchia data. Io gioco da quando è uscito il gioco, quell'anno del Gen Con, 2 anni fa. E io la settimana dopo, perché doveva giocare con qualcuno. Visto che... esatto, il mio sparring partner preferito. Sparring partner, soltanto lo giocavo. Sì. Ok, cosa volevamo dirvi? Volevo dirvi prima di tutto che quando uscirà questa puntata noi avremo già finito... la nostra quarta tappa di torneo cittadino diciamo che noi siamo di Vigevano, una città sperduta a 30-35 km da Milano adesso, e stiamo abbracciando un pochino il meta delle province selvagge, cioè tutto ciò che ruota intorno a Milano, runner che corrono nudi per la campagna, certo, per le risaie, nelle risaie, esatto, va bene. L'ho tracciato, lì. Lo devo perdere. Si possono dire le parolacce, mi hanno detto. Eh? Ah, si possono? Sì, no, quindi mettete culo, si possono dire queste cose qua. Poi facciamo e mettiamo i beep, però. Ma al massimo per le bestemmie, ecco. Bene, comunque stavo dicendo del nostro torneo che stiamo organizzando. Quarta tappa, naturalmente sarà già finita. Chissà chi saranno i vincitori. È un torneo con quasi più premi che partecipanti. Questo è molto vero rispetto alla media normale. E quindi noi siamo già alla quarta tappa. Io personalmente organizzo questo torneo da un anno. Un anno e mezzo. Una volta visto che riesco a fare di tutto, sia a procurare premi che organizzare tutta la cornice. Sta avendo buoni risultati, ai giocatori che pare piacere. Comunque noi abbiamo un buon nucleo di giocatori e di intorni, partecipa sempre. Se siete di Milano o dei dintorni, ricordatevi che per settembre-ottobre ci sarà una nuova tappa. Partecipate. Beh, ma anche da un po' più lontani, nel senso che a questo torneo abbiamo avuto gente che veniva da... E poi da... Aggiungi poi in post-produzione. Non lo aggiungerò. Abbiamo avuto però un ragazzo della Svizzera alla terza tappa, Mike. Spero di aver azzeccato il nome, se no mi ucciderai. Lo so già. Ma abbiamo avuto diverse persone che sono arrivate da molto lontano. Quindi, che dire, il torneo è sempre una cosa bella. Il torneo, secondo me, è la cosa. È l'anima di Netrunner. Proprio. Dove si vede proprio il gioco, no? perché comunque alle partite con gli amici è bello e tutto il resto, però arrivare lì con i propri mazzi e cercare di scalare la classifica non sapendo cosa gli altri hanno portato. Ma è poi bello provare a giocare sempre con delle persone diverse che sanno qualche regola in più di te e ti fanno vedere qualche meccanica e rimani lì di merda quando ti girano uno scorcio alert, uno scorcio alert in un Ginteki che non giocava. Ma Dio, buono. Lasciamo perdere, no? Lo mettete ovunque, anche nelle patatine. Sì, come sorpresa, basta scorcio alert. Continuiamo con... Ricordatevi, partecipate nella VGN Corporation. Allora, continuiamo con la prossima rubrica, che è la carta del giorno. Siccome noi non è un podcast pirata il nostro, non abbiamo tutte le musichette che finiscono, quindi adesso le faremo noi. Siamo poveri, sì. Per ora ci dobbiamo accontentare con quello che abbiamo, cioè io che faccio lo scemo, sì. Poi più avanti magari riusciremo ad avere qualche mezzo un po' più tecnologico. Abbiamo Google, possiamo digitare musichette nella barra di Google, come fanno i vecchi. Comunque questa la nostra prossima rubrica è la carta del giorno. La carta del giorno. Allora, la carta del giorno di Noah, ecco perché io adesso mi azzitterò per un momento, e abbiamo scelto delle carte che ci piacevano. Sì, delle carte, a volte delle carte ben utilizzate abbastanza spesso nei mazzi, altre invece quelle tech dell'ultima ora. Ma proprio dell'ultima ora, cioè, robe che vengono buttate dentro a UFO giusto per completare le tot carte. Noi adesso stiamo andando a prendere i raccoglitori, perché non ci andiamo assolutamente. Ne prenderemo una a caso, probabilmente. Sì, guarda, questa qui mi piace, c'è il fondo rosso. Ok, perfetto. Allora, questa qua si chiama Panic Button. Ah, signori, Panic Button. Il bottone del panicone, come viene chiamato tranquillamente, allora, in gergo. Allora, intanto andrò a cercare di quale espansione è uscita. Ma guarda, anno 2013. Numero 72. Vabbè, vi descrivo intanto com'è la figura. C'è praticamente un povero tizio che è alle prese con una schermata di Windows che ha crashato con su scritto warning. Forse magari invece un runner che stava facendo una run sul server. Sì, se avesse avuto macOS questi problemi non ci sarebbero stati. Non iniziamo con questa cosa, per favore. Vabbè, niente, praticamente c'è un povero tizio che vuole spegnere tutto quanto e schiaccia il bottone del panicone. Allora, io la giocavo in un Fast Advance. Prima di tutto cos'è? È un upgrade? È un upgrade. È un upgrade diretto. Costo 1 e si butta nel cestino con 2. Si può solo installare? Sopra il mazzone, cioè sull'HQ. No, non è il mazzone. Sull'HQ. O che è la mano. Infatti, voi non potete vedere, ma ho fatto dei gesti di mano, di carte tenute in mano, ecco. Scusatemi, sulla mano volevo dire. Comunque è uscito con True Colors, i colori della magia. Vabbè, praticamente come funziona questa carta? Voi la installate sul tetto del vostro HQ, cioè sulla mano, e quando il runner birichino vi corre in mano e voi avete solamente un'agenda, pagate X crediti. Poveri pazzi voi che tenete un'agenda in mano. Pagate X crediti e pescate X carte. Cioè, iniziate a pagare un credito, paghi un credito, pesca una carta, paghi un credito, pesca una carta. Quante volte puoi schiacciare? Ma io credo che tutti i soldi che hai li puoi sputtanare in carte. Ma così. Allora, è utile se tu giochi un Cerebral Imaging, magari potrebbe anche essere utile. Sei pazzo perché ci sono tipo 800 carte più forti. Però puoi pescare un botto di carte con una run sola del run. Ma soprattutto quello che vi serve è non farvi sgamare brutalmente le agende se ce le avete in mano. E poi potete ripartire il turno dopo con un botto di bombe. Effettivamente è vero, perché d'altro canto si risparmia, diciamo, dei click, esatto, di pescaggio. Quindi nel caso in cui volete fare questo sacrificio, ecco, è una carta un po' particolare. Secondo me ha senso. Leggiamo la descrizione, dice: il bottone sembrava non fare nulla, allora quindi l'ha schiacciato ancora e ancora e ancora. Effettivamente, secondo molti, questa carta non fa un cazzo, ma... Io ci ho vinto delle partite. Ci hai vinto delle partite? Sì. Proprio con quella? Sì, ho già vinto delle partite perché fondamentalmente col Fast Advance, ma avevo un Fast Advance polpette e patatine, pescavo le carte, le buttavo, non mi facevo beccare le agende, le buttavo nel cestino e con il giocattolaio, che è una carta, io chiamo giocattolaio, e già qui facciamo un hook. Sì, per la nostra prossima, per la prossima, non proprio prossima, però siamo il giocattolaio è Jackson Howard. Jackson Howard, che c'è tutto il giocattolo dietro. E fondamentalmente poi mi andavo a rimettere le carte in eccesso nel mazzo, ma insomma era una buona tattica. Certo, si gioca in monocopia, più di una veramente siete dei babboni, cioè poi con tutto rispetto a chi ne gioca più di una, però forse abbiamo parlato fin troppo di questa carta, però ci piace, devo dire che ci è piaciuta, ci è sempre piaciuta. Passiamo invece adesso alla nostra prossima rubrica. Vogliamo mettere la tua carta preferita? No, la mia carta preferita diciamo dopo. Va bene. La nostra prossima rubrica vogliamo mettere un pochino più di brio. Brio mi piace, una bella parola. E la nostra prossima rubrica si chiama Wild Side, ovvero la balera degli Ana. Ho finito i jingle. No, è un problema, signori, perché noi abbiamo altre 4-5 rubriche. Se abbiamo finito i jingle adesso siamo fottuti. Allora, cos'è questa rubrica? Semplicemente cerchiamo una carta che ci ispira a una canzone che sentiremo. E la carta che ho scelto come runner è Noise, il nostro primo Anarch nel nostro cuore. E la canzone che ci ha ispirato è Maxwell Murder dei Rancid. Questa era Maxwell Murder dei Rancid. Signori, penso che conosciate i Rancid, se non conoscete una... Andateli a googolare, abbiamo Google, l'ho scoperto, non sapevo. Digiti www.rancid.com. No, non credo, e schiacciate due volte invio, proprio come i vecchi. Come i vecchi, esatto. Comunque, esatto, perché come i vecchi? Perché i Rancid, con questo album che è An Outcome of the Wolfies, no, l'ho detto sbagliato, ma più o meno è quello, non cercato su Google, era il 95, signori, è stata una delle band che secondo me ha segnato la storia del punk in quegli anni, naturalmente poi 5 o 6 dopo, punk è morto. Pensavo il signor Rancid. Ah no, il signor Rancid mi pare che siano tutti vivi e siano tranquilli e belli e beati, Tim Armstrong, così mi pare. Spero, se poi al massimo mi mettete nei commenti che sono morte gente, mi scuserò con loro. Il 95, ho perso la verginità col mio primo personaggio di Dungeons and Dragons nel 95. Sta cosa sta facendo molto nerd. Andiamo avanti con la carta del giorno. Di nuovo La sigla è quella di prima. La carta del giorno, la mia carta del giorno è Katie Jones, signori. Conoscete tutti Katie Jones, non devo neanche andarla a cercare, quella ragazzotta che costa ben 2 crediti per installare, è una risorsa. Attualmente è una carta runner che è una risorsa. E neutrale, nessuna influenza da per infilare nel mazzo. Cosa fa la ragazzotta? La puoi giocare da sola? La posso giocare da sola, è unica. La Katie Jones è unica, è da sola nel mio cuore. È una collection. Infatti questo è molto importante. Con un credito, si può usare solo un'abilità, un click, sì. Scusate, solo un'abilità una volta a turno. Con un click potete metterci sopra 3 crediti. Questa abilità potete usare solo una volta. Secondo turno ancora, un click ci mette sopra 3 crediti. Continuano a infilarsi i crediti su Cathy Jones e poi con un click, sempre in un turno in cui non avete già utilizzato, potete scaricare Cathy Jones e prendere un fottiglio di crediti. Allora, Cathy Jones ha una resa di economia altissima dopo il terzo turno e normalmente alla fine della fiera in 3 turni 9 crediti non è una roba niente male. L'unica carta che la supera secondo me è il Magnus Opus si chiama, che nel turno carica un bel 6 crediti con 3 click, che è una roba fantastica. Però questo permette di mettere il credito e fare altre cose, sì, nell'attesa del momento giusto per entrare. C'è da dire che Magnus Opus, la carta uscita da Hogwarts, Magnus Opus fondamentalmente che svantaggi ha? Innanzitutto è allineato, un programma Shaper, quindi è un programma Shaper e con 2 influenza, ma la cosa che veramente dà fastidio sono quei 2 di MU. Sì signori, MU, voi lo sapete cosa sono gli MU, ovvero la memoria del programma. Ne avete 4, 2 vengono occupati da Magnus Opus, sì, Magnus Opus. Sì. Per me è Magnus Opus, E però ragazzi, cioè, i crediti sono crediti, sono importantissimi per fare le run, lo sapete. Tra le altre carte, così vogliamo ricordare che danno soldi, sono le carte Burst del Criminal, cui Easy Mark, c'è cioè, Trim of Contact, che è una specie di Cathy Jones ma più sfigata, secondo me. Dovremmo dire anche i nomi in italiano per quei poveri ragazzi che hanno comprato. Ragazzi, mi dispiace, ma io non conosco una carta in italiano. Pronto, fagiolo magico, mi dispiace. Se mi inviate il nome delle carte, io ve le dico anche in italiano. Comunque, Cathy Jones è Cathy Jones, anche in italiano. Sì, ci sono delle banche che fanno... Stai parlando delle varie banchette, sì, dei crediti, vi dicendo. C'è la ragazza che piglia il sole, separate account degli Anask. Sì, è una bella banchetta anche quella. Costa 6 metterla giù, è una risorsa e ci piazzi sopra 16 crediti. Ogni click sono 4 crediti. Beh, con 4 click però 16 crediti niente male, eh. Sì, te li sfagiamo via 4 click e 10 crediti guadagno, niente male anche questo. Insomma, ci sono delle varie carte. Questa qui, Cathy Jones, è la mia preferita perché nei momenti di calma la carico, quando serve scarico giù un credito e parte, vado dove c'ho. Naturalmente in base al mazzo. Cos'è? È una connection, quindi potete usare quella carta, la carta di Criminal, dove c'è il si chiama Thomas Ass in copertina, dove semplicemente voi con 2 click e un credito per giocare a un evento, è un double, quindi appunto 2 click, andate a prendere una connection e la giocate. Quindi fondamentalmente i 2 click servono per andare a prenderla di tutore e giocarti Cathy Jones in ovviamente. Hostage è una delle carte migliori che abbiano mai fatto del double, combina effettivamente bene i 2 click, quindi influenza 2. Sì, ma signor, giocate anche Cathy Jones da sola in 2 per 3 per, è fantastica, cioè dategli fiducia, è una ragazza a cui dovete dare il cuore, dovete dare veramente, sposatevela. Sì, poi è l'unica ragazza UPS che conosco. Sì, effettivamente sì. Andiamo avanti con la nostra prossima e originalissima rubrica. Che fine ha fatto Simone San Diego? Allora, non lo sapevo io, complimenti perché era molto bello. Questo sì, me lo ricordo. Allora, fondamentalmente, un piccolo preambolo. Io non so praticamente neanche un nome delle figurine di Netrunner. Confermo tantissimo. Me le dimentico tutte e quindi devo trovare sempre dei nomignoli, delle peculiarità per ricordarmi quali sono le carte da giocare, le più giocate, via dicendo. Non a caso, cosa che mi viene in mente? Vabbè, la ragazza dell'UPS, come dicevo prima, è la giocattolaio. Jones, giocattolaio, via dicendo. Ma sapete, insomma, non si ricorda manco un cazzo di nome. Quelle che vi propongo stasera sono le mie prime 3 carte che mi vengono in mente, che gioco abbastanza spesso. E volevamo fare con Luca Ricci, campione nazionale Netrunner 2014 italiano, via dicendo, una sorta di concorso nel podcast. Adesso sinceramente non so come farete sotto forma di... Beh, io direi che funziona così, diciamo, il gioco. Ovvero adesso Noah dirà il nome delle carte, il nome naturalmente non vero, il nome che lui usa per usare queste carte, e voi dovete cercare di scoprire che carte sono. Praticamente valgono tutte le carte fino a un profit. Sì, sì, sì. Beh, però fate conto che due di queste carte. Allora, non iniziare a dare suggerimenti, eh? Insomma, sei sempre solito. Sono un buono. Sei un buono, tu non mi farò giocare il Jolly Asobet. Allora, quindi cosa dovete fare? Rispondeteci come volete, rispondeteci commentando sul sito, rispondeteci commentando su Facebook. Mandateci un SMS al nostro numero di telefono 349-55. Ma no, no, no, no, no, non chiamatemi voi, che io lo so che volete vendermi una friggitrice di pentole, non lo so, una Trecani, una Trecani, bravo. Comunque, qualsiasi maniera, contattateci e forse magari riusciamo a tirare fuori anche dei premi. Certo, noi siamo i ragazzi dei premi. Anche questo è vero, se venite a un nostro torneo sapete benissimo che i nostri premi sono fantastici. Beh, no, più che fantastici, abbondanti. Abbondanti, anche vero. Sono e abbordabili anche. Sono come il seno prosperoso della tabaccaia di Amarcord. Non è proprio bellissimo, però è abbondante. È abbondante. Quindi iniziamo con la prima carta della nostra rubrica, che fine ha fatto Simon San Diego. La prima carta è la zozza. Avete capito bene, la zozza. Che carta sarà mai? Provate a immaginarlo. E intanto continuiamo con la seconda carta, che è Occhietto. Occhietto. Mica dai, Occhietto ti sì, piace. Non solo dico anch'io Occhietto oramai, però non posso, devo fare un po' il misterioso, non so cosa sono, lo so benissimo. E continuiamo con la nostra terza carta misteriosa, che è la friggitrice. Questa secondo me è la più difficile delle tre. No, beh, la zozza, ce ne sono tante di zozze. Però no, vabbè, la zozza, sì, lo sappiamo benissimo. Anche perché quando cali la zozza, quando scende... No, basta, ti dà già troppo... Io lo so che tu vuoi dare un sacco sono di sono buono, dici. Sono buono. Ma tanto i premi li metti te, quindi voglio essere buono. Come io quando devo dare sì ai soldoni. Quindi, rispondeteci nei commenti, mandateci email, Facebook, i commenti del sito, qualsiasi cosa, per... E chi, non so, chi il primo che risponde giusto? No, tanto è tutta una cosa combinata. Quello che ci sta più simpatico, diamo il premio. Questo dovevi dirlo quando spegnevamo il podcast. Ah, allora il primo che commenterà con... vabbè, insomma, ci mettiamo a posto. Ecco, capito. Tutti quelli che indovinano glielo diamo il premio, dai. Sono dell'altro. Continuiamo con la prossima rubrica, forse quella un pochino più seria, speriamo. Sì, infatti è l'unica in cui sto zitto. Ed è Chiedilo al Sisop. Jingle? Anzi, no, sto zitto. No, devi dire qualcosa. Chiedilo al Sisop. Ah, così. Chiedilo al Sisop. Allora, prima di tutto, cos'è un Sisop? Abbiamo delle carte che anche lo identificano. Ah, e... no, non devi andare a cercare comunque. Il Sisop di solito è l'amministratore del sistema, quel povero ragazzo che deve mettersi lì tutti i giorni a sistemare i server. Con chiedere al Sisop voglio prendere alcune delle domande che sono state poste su Facebook, soprattutto sul gruppo di Facebook Runner Italia, e sulle regole, ok? Quindi, per chiedere al Sisop, Francesco da Bologna, credo, non lo so. Francesco da B2 nel foglio Excel di Luca Ricci domandava: ma gli score as agenda effect, tipo gli executive, triggerano cose come l'abilità di Jinteki, PE o Kraken? La risposta a questa domanda è molto semplice. No, i termini sono molto diversi. Carte come Notoriety, CQ, Chairman Hero, Director Ass, che usano il termine add, aggiungere, nella score area, non triggerano quel tipo di effetto, perché il trigger, per esempio, di Jinteki è when you score. Si scora soltanto quando si prendono i punti dell'agenda, ovvero quando si è messo sopra abbastanza la sua token e quando si mette dentro. L'altro trigger è when you steal, quindi quando per esempio Chairman Hero viene ad essere prima trashato, perché il segreto viene trashato, dopo quel punto va nella score area del runner, ma non è stato rubato, viene aggiunto. Quindi il termine aggiungere e score e steal sono tutti tre termini differenti, non funziona. Poi ve lo faremo anche in italiano. Sì, sì, in italiano. Andiamo avanti con la prossima domanda di Andy Turrini. Andy Turrini, scusate, che viene da Bologna 3. Se vi sputtano così, però avete scritto, quindi magari interessa anche un po' altra gente che ascolta il podcast. Domanda su Victor 2.0: se ho un power counter su DS, il brain damage lo posso fare in qualsiasi momento della partita? Ah, questa la so io, posso rispondere? Sì, sì, prego, prego. Allora, sì, ma solo sempre in risposta ad un'azione del runner. Ovvero, cosa intende per in risposta ad un'azione del runner? Ah, devo andare avanti io, ma pensavo che la sapevi tutta. No, ho letto solo il primo pezzo. Ah, l'ho letto solo il primo pezzo. Praticamente è un'abilità, è una paid ability. Paid ability possono essere soltanto fatte in risposta a un'azione dell'altro giocatore. Tra l'altro il giocatore ha l'iniziativa, quindi per esempio è il turno del runner. Il runner prima dovrà fare un'azione e poi il corpo potrà rispondere con una delle sue carte. Normalmente quindi non succede finché uno dei due dice faccio questa cosa. Che significa non puoi usare il counter prima che il runner abbia usato il primo turno. Se invece è il tuo turno corpo, puoi usarlo quando vuoi. Esatto, hai tu l'iniziativa, diciamo, chiamiamola iniziativa. Iniziativa, esatto. Priorità. Quindi, esatto, funziona in quella fine. Facciamo un'altra domanda, così perché ci piace a molti. Per esempio, Dennis dice: Hudson più archivi, magari con qualche carta coperta. Come funziona? Hudson è un ice che dice che, come Sabrutine, se non la rompi, dice che puoi accedere solo a una carta. Che succede quando vai negli archivi che ci sono mille carte, alcune coperte, alcune scoperte? Ma dici Aiazzone di che... HB. HB. Aiazzone HB. Adesso non so dire così di resto, tutto il resto. Lo vado a recuperare. Praticamente che succede? La prima cosa che si fa, che sia che tu abbia passato Hudson, sia che tu non abbia passato Hudson, sia libero, negli archivi è... quando si accede alle carte, quando si entra dentro, è girare tutte le carte coperte, ok? A quel punto il runner ha sempre la scelta di come accedere alle carte, l'ordine e anche naturalmente quali. Quindi se è limitato da Hudson, che dice che puoi guardare solo una carta, puoi accedere solo una carta, tu guardi tutte le carte, quindi giri tutte le carte coperte, ne guardi una. Cioè, ne scegli una e quella la cedi. Quindi se è un'agenda, la prendi. Se c'è uno shock e tu sei così scemo, mi spiace dirlo, va da dire, ah, cedo lo shock, ti fai un danno. Naturalmente, se ci sono mille shock, uno shikyu e è passato Hudson, magari accederai a quell'ice che è stato buttato via. Ecco. No, mi sta guardando, non ha capito molto. Sì, no, certo che ho capito. Quindi partiamo col corollario. Cosa succede quando si va negli archivi e ci sono diverse carte che si attivano? Scegli sempre tu, runner, l'ordine con cui accedere alle carte, ma tu accederai a tutte le carte. Quindi, ad esempio, ci sono due agende, due shikyu, due shock e altra roba. Tu puoi dire prima di prendere le due agende, ok? E magari chiudere la partita. Magari chiudere la partita. Se non hai chiuso la partita, però, sarei obbligato anche a prendere il resto delle carte, quindi gli shock e gli shikyu. Magari tu vuoi prima prendere gli shikyu, vedere come funziona il damage. Potreste bere quella birra intanto? Sì. Il Sisop lo chiede. Oh, mamma mia, questa qui è una birra artigianale. Padre, Sisop. Opla, abbiamo pulito i nostri bicchieri nel frattempo. Quindi, ricordatevi che voi potete sempre scegliere l'ordine di accesso delle carte. Cosa nel molto cesso. Importante nel cesso. Nel cesso. Gli archivi, ragazzi, gli archivi. Oh, ragazzi, mi raccomando, state attenti, perché questa regola qui adesso, con il proliferare di Jinteki, sarà chiesta e utilizzata, richiesta durante i tornei, via dicendo. Il vostro oppo magari vi dirà: ma no, dai, funziona così, funziona così. Adesso lo sapete. Lo sapete benissimo. Ultimissima domanda su Caprice Nisei, che è stata molto utilizzata, ma ancora non viene molto capita, ok? Vabbè, non capirlo. È la finestra di utilizzo. Ovvero, Marco chiede: dopo che fallisce Caprice Nisei, si può usare Nisei MK2 per fare End the Run? Allora, Nisei MK2 è un'agenda che, se scorata, ha un power token sopra, power counter sopra, che indica che puoi usarla come paid ability per fare End the Run. Caprice Nisei, spero che la conosciate tutti, è quella carta che dice: una volta passati tutti gli ice, allora se io devo fare il giochetto 0-1-2, se fai uguale puoi andare avanti e accedere alle carte. Esatto. Ok? Se no, End the Run. Se no, End the Run, quindi anche Successor Run. Allora, come funziona praticamente? Siccome se Caprice Nisei si attiva nel punto 4 del diagramma di flusso della run, Nisei MK2 può essere ancora attivata nel punto 4.3, ovvero prima che il runner entri dentro il server. fondamentalmente il Caprice è come se stesse fuori dalla porta del, dove sta nascosta la vostra agenda. Quindi, dopo che hai sbaragliato Capricciosa, puoi ancora bloccare la porta del palazzo contenente l'agenda. Aggiungo anche un'altra cosa: attenzione quando mettete Caprice da sola senza Ice davanti. Caprice voi la dovete girare sempre e solo nella finestra di Rez. Che significa? Se avete un Ice davanti, dovete girare l'Ice e subito Caprice. Il runner quindi saprà che c'è Caprice ed è obbligato a scegliere se passare l'Ice e quindi poi passare Caprice. Se invece non avete messo un Ice davanti a Caprice, per far sì che l'effetto funzioni, perché l'effetto funziona anche se non ci sono Ice, però voi dovete rezzarla prima che il runner dichiari una run. Quindi se per esempio col primo click lui pesca una carta, voi potete a quel punto, in risposta come ho detto prima, essendo appena ability, potete girare Caprice e averla lì che vi protegge il portone. Ma ricordate, dovete farlo prima che lui dichiari la run sul server senza Ice. Facciamo una domanda, perché non è chiara questa cosa? Magari ho capito bene e magari ho capito male. Quindi, put a caso, io ho Caprice ancora coperta. Buona, sei buona, bravo tuo papà. Caprice coperta. Caprice è coperta. Lui mi dichiara che corre verso la mia Caprice. Boh, basta. Se non hai Ice davanti? Non ho Ice davanti. Io non posso dirgli, vuoi accedere? E lui mi dice, sì. Allora prima che accedi, giro la roba. Purtroppo è troppo tardi, perché in quel momento abbiamo già superato il punto 4 del diagramma di flusso. E quindi non si può rezzare. Vabbè, ma se la mettete lì da sola a morire... Vabbè, insomma, siete... Povera Caprice. Terminiamo qui, avremo altre domande, voi se volete inviateci altre domande, io intanto segnerò le cose per Facebook, anche quelle che mi vengono chieste dai vari giocatori nella sessione di allenamento, e insomma se c'è qualsiasi cosa noi vi vogliamo sempre cercare di informare. Se invece volete dare conto alle nostre spiegazioni, fateci sapere, ma fatecelo sapere, perché magari ogni tanto anche noi tiriamo le stronzate. Ecco, continuiamo con di nuovo la nostra nuova rubrica che è Whiteside, la balera degli anarchici. Ragazzi, ma la balera degli anarchici. La prossima volta usiamo tipo Raul Casadei, che è un famoso anarch emiliano. Che è romagnolo, scusate, non me ne vogliate male. Che canta qualcosa di punk rock. E per il lato corp, mi sono fatto ispirare da Jim Takey, in questo caso l'identità base, e la canzone che mi è venuta in mente molto ispirata a Jim Takey in questo caso è dei Yoshida Brothers ed è Rising. E questa era Rising dei Yoshida Brothers. Come avete sentito, sono due fratelli, quindi due cloni, per questo un po' il collegamento con Jinteki, che suonano in maniera moderna il mandolino giapponese, lo yamisen, non il mandolino giapponese. Adesso io vi sfido, andate su Google, cioè, Google, www.iltuotubo.redtube.com. No, RedTube no, ragazzi, ci puoi arrivare anche da lì. Comunque andate su YouTube, andate a vedere i fratelli del Yoshida qua. Yoshida. I Bukake Brothers. No, i Bukake Brothers no. Beh, se passate per RedTube lo trovate i Bukake, sì, Brothers. Non andate, cioè, poi diventate ciechi come runner, per favore. Quindi, beh, no, è blind, sì, vabbè. Vabbè, praticamente c'è uno sto mandolino e girano su yamisen, un yamisen che girano su un tombino e fanno è un strumento tipico giapponese, come il nostro mandolino, in un certo senso. Non è mandolino, non è tipico italiano, quindi io voglio sfidarvi a yamisen. No, sì, domani mattina yamisen. No, voglio sfidare tutti voi a mandarci una fotografia con in mano un mandolino. Il mio silenzio significa qualcosa tipo vabbè. Voglio vedere, cioè, allora, ah, tu vuoi vedere se c'è qualcuno che ha il coraggio, qualche italiano che c'ha un cazzo di mandolino. Ah, cazzo, si può dire in podcast? Sì, ho detto cazzo. Se hanno un mandolino, cioè, adesso, quante persone hanno visto, toccato, avuto, posseduto carnalmente un mandolino? Sono tutti sinonimi, ragazzi. Ah, ragazzi, il mandolino, non l'ukulele. L'ukulele non è... L'ukulele è il mandolino dei fighetti delle colonne di San Lorenzo. Dove ragazzi, lì, per favore, Batman! Batman! Ok, bene, abbiamo concluso con Wild Side, la ballera degli Anarch. Spero che vi sia piaciuto questo altro intermezzo musicale. E andiamo con l'ultima rubrica, che è tornei in giro per il mondo. Non abbiamo un nome più bello. Aspetta, aspetta, com'è che faceva la sigla? Immaginatevi la sigla di Giochi Senza Frontiere. Pa pa pa pa pa pa pa pa. Vabbè, l'abbiamo fatta. In pratica, come funziona questa rubricona? Niente, prendiamo due tornei a cavolo. No, uno solo. Prendiamo uno, solo, perché stiamo tirando, cioè, stiamo tirando, ragazzi, vi siete appena svegliati, state ascoltando due pirloni. Beh, che oramai parlano. Sarà tipo pomeriggio inoltrato, cioè, quindi andiamo a prendere un torneo sfigato, chiamiamolo così. O anche no, magari è un torneo fighissimo, in base, adesso vediamo, noi prendiamo uno a caso, facciamo un giro di ruota della fortuna. Cosa ci è capitato? Questo? Volevo fare il russo, però va bene, dai, il norvegese. Allora, signore, i regionali norvegesi 2014, quindi non sappiamo se sono nazionali o regionali, effettivamente. Dipende dal kit che avevano, praticamente, quando è arrivato il coso. 13 persone. Beh, allora con un numero così consistente penso che sia un nazionale. Un nazionale, dici? Norvegia? Norvegia, sì. Sì, perché probabilmente quelli che sono arrivati sono i sopravvissuti che non sono stati mangiati dagli esatto. Orsi. Si è svolto in un igloo? No, non anche. Sono degli stereotipi viventi, va bene. Allora, loro direbbero che noi stiamo giocando col mandolino. Mandolino, effettivamente. Allora, cosa hanno portato come runner? Beh, Reina Roja, il mazzo si chiama Queen of the Night, vediamo. Ecco, questo mazzo Anarch utilizza uno dei nuovi archetipi, quello che vede Account Siphon dentro. L'anarchico. L'anarchico. In più, però, questo furbetto ha messo un Planet Assault. Planet Assault, nuova carta Honor and Profit, dice che ti vai a cercare un evento run e lo giochi. È per andarsi a giocare i sifoni. Niente male come idea, effettivamente. Sì, molto molto interessante. Ne gioca due di sifoni perché... Qui. Sì, non può giocare il terzo perché sarà fuori influenza. Però due sifoni, due Account Siphon, ragazzi, scusate. Due sifoni e due Planet Assault significa avere ben quattro carte per avere un sifone. Esatto. Quindi vuol dire cercare quell'economia che magari alcuni non si riusciva. Perché in questo tipo di archetipo, se non trovi l'Account Siphon, insomma, non togli agli altri, non prendi da economia. Poi vediamo sempre i soliti Sure Gamble. Well. Un Mono Vamp che va bene, ma probabilmente non serviva. Un Inside Job. Proprio spruzzato tutto di blu. Sì, ma poteva giocare a Criminal. Criminal. Ma si vede che gli piaceva il rosso. Secondo me è l'unico. Due Plus Crit Carapace, naturalmente. Oramai li vediamo quasi sempre. Tre Deep Red, la console appunto di Reina. Poi vediamo i programmi. Qui naturalmente in mille programmi Anarch, Datasack, Rimp, Medium, Nerve Agent, Parassiti, K-Hall, Corroder, Rook addirittura, Knight e Overmind. Ovvero Rook e Knight servono per entrare dovunque e far rezzare facendo pagare tantissimo. Gli account cipher per togliere soldi, insomma un mazzo denial proprio nella maniera in cui si è visto ultimamente. Naturalmente a chiudere nelle risorse il data leak reverse al Joshua B che servono per fare la combo tag, Samolfing per rigiocare gli account cipher e 3 liberated account. Attenzione, un'economia invece a risorsa in burst. Interessante che questa avrà dei 16 crediti, la famosa ragazza. Sì, a bronza. Secondo me è un mazzo interessante. L'unica carta veramente che non poteva togliere, buttarla via addirittura, Il Vamp. Per il resto è interessante. A me il Vamp non ci piace. Vai già gli accansai per cosa ti serve il Vamp. Però vabbè, per tenerlo muto a terra e... Vabbè, ma questo qui era proprio un creativo, questo norvegese. Diciamo sì, che sì, comunque erano in 13, probabilmente 3 erano i suoi fratelli. No, ma si merita di essere sopravvissuto agli USA, ecco. Esatto. Con questo runner devo dire la verità. Passiamo invece al suo corp. Allora, il suo corp è Cerebral Imaging, mazzo combo, l'unico mazzo combo per ora, diciamo. Sì, fortunatamente un unico mazzo che potrebbe vincere anche senza gli scorci con agilità. Che agende gioca? Gioca delle agende strane però, allora, rispetto al solito. Esatto, gioca la mono Napd per arrivare al 20° punto, sicuramente. Esatto. Poi gioca Executive Retreat. Signore, Executive Retreat deve essere stata la scelta peggiore del mondo. È quella che ti permette di rigirarti 5 carte. Quindi vuol dire che tutte le tue... La sauna. La sauna, esatto, la sauna neutrale. Che quando scorri puoi usarlo quello vuoi. Ah no, non è vero, signora. Per pescare 5 carte. Effettivamente questa cosa ha senso. Io me la ricordavo differentemente. Questo permetterebbe a Cerebral Imaging di avere quel boost in più e pescare altre carte per poi fare la gente. Ma non lo so, io ho una carta con due uomini che coi pettoraloni. Però ci sono le donnine in fondo. Sì. In cucina che fanno gli amici. No, non diciamo niente, per favore. Ma sì, che tanto. Ma tanto. Ma poi la cosa che mi lascia ancora più perplesso sono i 3 progetti Wutang. I progetti Wutang sono interessanti. Praticamente, 3 agenda counter, scegli un Ice Bioroid e quello guadagna un Ender Hunt. Ah no, l'avevo confuso con quell'altro, scusami. L'avevo confuso con quello che guadagnavi. Andiamo subito a vedere a questo punto gli ice che gioca. Tantissimi signori, 15 ice. Cosa se ne fa di tutti questi ice? Si para il culo intanto che si fa la mano buona e... dicendo, tanto li pesca tutti, sì, li tiene in mano. Andiamo a vedere che ha Eli, Victor 2.0. Victor è una carta che non riesce a piacere. Quandary per far parte in fretta Ferris. Buono, Janus in mono. IC 2.0 e Endor 2.0, insomma, praticamente tutti bioroidi a parte Quandary e forse anche Ferris. Non è un bioroid, lupetto. Beh, è un parco ice giga enorme. Serve naturalmente per proteggerti finché non riesci a superare. C'è da dire un'altra cosa: sì, prima delle operazioni, che bene o male è il cuore pulsante, nervante del mare. Se mi chiudi tutte le cose io non posso capire. Mi vai a prendere la lista, bene amato ragazzo. Ah, grazie. Eccolo qua. Che fa rima con testa di cazzo. Più sopra. Quindi lo cazzo. Merda, ho detto cazzo. Potete prendere sul nostro store la maglietta merda ho detto cazzo a soli 15 euro. 10 per te. Allora, sono gli asset. Gli asset sono dei bei trappoloni. Tiene il ragazzo. Allora, gioca due Cerebral Overwrite. Allora, 3 Cerebral Overwrite, che è la trappola che ti brucia il cervello. Esatto, la figura è un pallino attorniato da delle rondelle della pasta. Effettivamente l'idea funziona, perché se tutte le agende scorate sono da 5, probabilmente le mette giù, mette su 2 advanced token e passa. E passa, quindi può mettere un'agenda, ne mette una, ne mette due, e poi mette il trappolone cerebrale. Esatto. Un'altra trappolona che usa è il Ronin in doppia copia. In doppia copia? Beh, in doppia copia perché ha 4 di influenza. Un doppio Ronin ti sfanga il muso alla velocità dell'alluce. Fondamentalmente... Sono 4 danni, 3 danni? Mi sembra 3 danni. Me l'hanno sono fatto. 3 net damage, signori. 3 net damage vuol dire che 2 Ronin pronti ti possono uccidere. Ecco, insomma, 6 net damage, buono. Esatto, e sono net damage. Voi che andate a letto anche con il vostro carapace addosso, perché avete paura degli scorci. Esatto, toglietevi sto carapace almeno per andare a dormire, per favore. Al bagno, carapace sta dietro. Comunque, no, allora andiamo avanti. Voi che andate protetti sempre col carapace, state attenti perché il Ronin non vi fa i danni della carnetta, ma vi fa i danni del lentino. Quindi vi sfalda la faccia. Insomma, due asset particolarmente interessanti per avere una via in più per... Certo, c'è da dire che il Ronin, se ci vai contro... Cioè, tu fondamentalmente contro questo Cerebral Imaging ti tocca quasi andare a correre sempre. Tocca quasi andare a correre, esatto. Perché quindi... il Ronin, se ci arrivi contro, non ti succede niente. Ronin, Ronin, Ronin. No, te la sono già. No, la canzone che... Ah, già, è vero. Non avete sentito nulla, lo sentiamo la prossima volta. Fondamentalmente, cioè, il Ronin, se ci andate contro, non vi succede niente. L'agenda, se ci andate contro, è un beneficio. Sarebbe l'overwrite se ci andate contro. Sono cazzi. Sono cazzi amari. Merda, ho detto cazzo. Basta però questi amari. Quindi vediamo le operazioni classiche. Questa non è proprio l'operazione classica. Vabbè, ci sono gli hedge fund, biotic labor naturalmente, archive memories per recuperare le varie carte, restraccio per fare i soldi, reclamation order per pescare tutti una sola volta di nuovo in biotic labor, un closed account. Bello il closed account in monocopia. Vediamo un attimo. Effettivamente close account, blue level clearance per pescare cosa e neural amp, quindi come lo tagga per il cosa, esatto, di... lui è un po' come quello che ha il mono scorched, quella. ciao Iden. Quindi praticamente il close account è per quelli che dicono ah sì, tanto rimango taggato, cazzo me ne fotte, e fa close account. Sì, ma come lo tagli? Non gli serve, è una cosa, è un passante, cioè quello si tagga da solo. Cioè, sì, metti che la canza iPhone, dici mi tengo i due tag. Bello, eh. Come ho fatto io. Esatto, esattamente come hai fatto tu. E poi il Neural Amp, che signori, proprio è un no, però se gli... Effettivamente, però, cosa succede? Succede che il Cellular Imaging ha un sacco di carte. Ok. Questo destro. Ecco, ecco. Signori, praticamente penso che Noah sia andato addosso a un AI, ma se l'abbia ucciso. La mia domanda è: ma non potete fare come tutti i comuni mortali, avere un mouse con un unico tasto, come noi? Sì, il panic button. Come noi eletti. Ah, ma no, una lampa è sta merda. Però cazzo, ho detto merda. Basta con amari. Allora, avere tre lampi in mano per un CT che di solito è impossibile, perché un golfa la mano, devi aspettare che l'altro abbia meno carte, quindi non servono cazzo. Ma in combinazione con Cerebral Imaging, che può tenere 16 carte in mano, che quindi tra una lamp non ingolfano più di tanto. Dopo un Ronin, quindi gli si fa un Ronin, se ha 4 carte, insomma, okay. Si ha vinto, magari non ha vinto per queste cose, però l'idea che c'è dietro è sempre interessante. 2, 4, 6, stai contando se legale, spero di sì. 7 più 8, 7 più 7, 14, 1, 15. Preciso, è legale. Quindi il mazzo si chiama aneurismo cerebrale ed è una vera merda. È un mazzo che boh, magari lo porto per me, non lo so, io non, cioè in realtà io ho detto merda, ma perché sono geloso. Merda, hai detto merda. Cazzo, perché sono geloso, alla fine lui è il campione nazionale di Norvegia o regionale, non so qual è. Norvegia è un'unica regione, è un'unica regione, sì. È enorme, però una regione. È statuto speciale. È statuto speciale. Quindi questo è stato il commento ai mazzi del regionale Norway. No way. 2014, 13 giocatori. Comunque, dei mazzi che non erano così campati in aria, avevano il loro perché. Bene, direi che abbiamo finito con questa puntata, finalmente, direte voi, non ne potevate più. Oddio, cioè, io mi sono divertito. Se vi siete divertiti anche voi, andate sul nostro store. Sta puntando il microfono, con il dito, voi lo potete vedere, ma è fantastico. Andate sul nostro, abbiamo un sito internet, abbiamo, sì, un portale. Netrunner.it, andate sul netrunner.it, ma lo sapete perché avete sentito il podcast. Sì. Che è il sito più importante che c'è in Italia su Netrunner. No, secondo me è il sito più importante. È il sito. Lo trovate in Google, scrivete www.netrunner.it. Ragazzi, io, è per questo che non dice come runner, perché proprio non è capace. Vabbè, è stato un piacere. È stato un piacere, spero di avervi allietato per queste. Non so, montata quanto sarà questa puntata, penso. 7 minuti. Taglieremo tutto. E se qualcuno ha qualche problema con le parolacce, ci ha trovato insopportabili, scrivetelo, noi non lo facciamo più, smettiamo di fare il podcast, smettiamo di fare tutto, però vi sentirete in colpa per tutti quelli, molto, tipo la mia mamma e la sua mamma, che ci hanno ascoltato e gli siamo piaciuti tantissimo e ci vogliono sentire ancora. Basta, io vado. Dove vai? Dobbiamo salutare ancora, ciao. No, vabbè, diciamo grazie anche a Federico. Grazie a Federico, qui abbiamo cedato lo spazio. Magari sono anche contento per aver fatto un giorno di pausa. Ma probabilmente doveva andare a farsi i cazzi suoi in ferie. Ma infatti, cioè, raga, Federico, ma non stai pure in ferie? Mentre sta ancora. Che lavoro fa? Il commercio. Il coso di commercio. Il coso di commercio. Ma si piglia tanto con il coso di commercio. Ragazzi, la birra è proprio buona. È stato un piacere intrattenervi, buona notte, buon pomeriggio, buon mattino, buon risveglio, qualsiasi cosa di buono che dovete fare in questa giornata, fatelo. Il commercial dude. Il commercial dude, perfetto. Come si saluta? Arrivederci da Luca Ricci. Mi devo trovare un nome di scena. No, ti prego. No, Vassalli. Il fantastico ragazzo. Penny, per piacere, che mi sto vergognando. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out. Ma sei partito? Sì, vabbè, ma tanto taglio. Mio Dio! Questo lo mettiamo nel bootleg alla fine. Sì.